come vuole sangue un'altra volta. Sotto forma di parole limite che sputo dalla bocca. Il foglio resta bianco, imputato al banco. Punta il dito su di me che è tempo di bilancio. Sai mi sento stanco di tutte ste stronzate. Sai mi sento stanco di pagare la vita in rate. Queste le giornate al cardiopalma. Queste le giornate di merda da cui cerco la distanza. Il cielo cade a pezzi nella stanza. Il mio angelo custode e piange per la vita che gli manca. Ed ogni circostanza pesa sulla mia coscienza. E solo un'altra dipendenza, un'altra scimmia sulla testa. Questa orchestra suona musica che spacca. A volte non mi basta per sfogare tutta questa rabbia. Siamo tutti chiusi dentro ad una gabbia. 15 gocce a notte per dormire con più calma. È solo un'altra preda che fugge. L'ultima preghiera prima di arrivare al dunque. Il tempo che rimane me lo stringo con le unghie. Sono solo un'altra preda che fugge. È solo un'altra preda che fugge. L'ultima preghiera prima di arrivare al dunque. Il tempo che rimane me lo stringo con le unghie. Sono solo un'altra preda che fugge. Vorrei arrivare fino in fondo a sta faccenda, ma la paura aumenta ogni volta che la luce è spenta. Cerco più chiarezza e la solita promessa. Una guardo dentro agli occhi più alla fine mi spaventa. Questa è la coerenza della vita che hai scelto. Questo è un altro disco che per me suona al rovescio. Vivo tutto questo dentro situazioni che detesto. Al limite le evito evitando tutto il resto. È molto più complesso cercare di scappare. Questa preda resta ferma, sta aspettando solo il male. Non è normale nel tuo quotidiano. Parlo del reale, così almeno poi ci divertiamo. Sangue vuole sangue, allora stringo un'altra mano. Fumo perché a volte è meglio non vederci chiaro. In questo mondo provvisorio dove noi viviamo, ci adattiamo perché è meglio per la vita che facciamo. È solo un'altra preda che fugge. L'ultima preghiera prima di arrivare al dunque. Il tempo che rimane me lo stringo con le unghie. Sono solo un'altra preda che fugge. È solo un'altra preda che fugge. L'ultima preghiera prima di arrivare al dunque. Il tempo che rimane me lo stringo con le unghie. Sono solo un'altra preda che fugge. Hanno deciso di calmarmi, non gli bastano 3 grammi. Nella merda che lo stronzo si è deciso a darmi. Cerco di evitare tutti i vostri sguardi. Sono pesanti, giudizi, la maggior parte falsi. Sai che posso farci, trovo un modo per sfogarmi. Chiudo tutta la mia vita in rima dentro un 4 quarti. Di chi cazzo puoi fidarti? Ostaggi dentro un mondo che ci sta prendendo a calci. Senza più motivo per restarci. Qui ti adatti a sti fatti e allontani tutti quanti quei fantasmi. Della mossa dei dettagli, musica e parole scritte fuori pentagrammi. Tagli grossi sopra gli occhi, ci restano su tutti i miei ricordi. Gli stronzi vedi che poi li affondi. Sono giorni come questo che detesto. Giorni dove resto chiuso dentro a un cerchio. È solo un'altra preda che fugge. L'ultima preghiera prima di arrivare al dunque. Il tempo che rimane me lo stringo con le unghie. Sono solo un'altra preda che fugge. È solo un'altra preda che fugge. L'ultima preghiera prima di arrivare al dunque. Il tempo che rimane me lo stringo con le unghie. Sono solo un'altra preda che fugge. Che non sarà troppo tardi per farci qualcosa. È l'unico motivo per cui ti alzi al mattino. L'unico motivo per cui sopporti un capo stupido. Il sangue, il sudore e le lacrime. Questo perché vuoi che le persone sappiano quanto sei bravo, attraente, generoso, divertente, intelligente. Temetemi o riveritemi, ma per favore, pensate che sono speciale. Condividiamo una dipendenza. Siamo tossicomani dichiarati. Vogliamo tutti la pacca sulla spalla e l'orologio d'oro. L'epe purrà del cazzo. Guardate il ragazzo intelligente con il distintivo. Che luce del suo trofeo. Brillate diamanti impazziti. Siamo solo scimmie. Avvolte in bei vestiti. Che implorano l'approvazione degli altri. Se lo sapessimo non ci comporteremmo così. Qualcuno ce lo nasconde. E se avessi una seconda possibilità, chiederesti.